Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Voci d'Impresa. La puntata di oggi è dedicata a Wanda Ferragamo Miletti, presidente del gruppo Salvatore Ferragamo, un marchio affermato nel mondo della moda, un marchio che ha alle spalle quasi un secolo di storia, frutto di un'impresa che negli anni ha subito il passaggio del testimone dal marito alla moglie. Wanda Ferragamo, appunto, una donna che da più di 40 anni è alla guida di questa grande azienda, ma per conoscere la sua storia e capire cosa vuol dire essere una donna al comando non si può prescindere dalle radici. Ovvero dall'avventura del marito, Salvatore, il fondatore. Con mio marito parlavamo molto, quindi da lui ho imparato tanto, perché, vedi, io avevo 18 anni e lui ne aveva 42. Era stato in America 13 anni, partendo da Napoli come emigrante a 16 anni. Ed era stato quindi 13 anni ed era ritornato dopo 13 anni, ma era già famoso in America. Però c'era tanto lavoro davanti a lui, per cui lui ha messo insieme la nostalgia per la sua terra, la nostalgia per sua madre, moltissimo, e anche il bisogno di produrre di più. Cosa che in America non era possibile, anche perché i suoi modelli erano molto fantasiosi, erano elaborati, erano stupendi ed era una novità per quell'epoca. E quindi avevo una continua domanda, sempre di più, sempre di più. Allora ritornò in Italia. E poi, solo quando aveva 42 anni, si è sposato. Quando è tornato in Italia aveva 29 anni. È partito dal paesello nostro, che è un paese dell'Irpinia. E quindi ha imparato il suo mestiere in questo paesello, dove vicino a casa sua c'era una bottega di calzolaio, molto bravo però, e da lui ha imparato le prime cose, andava a giocare da piccolino, poi via via si è appassionato a questo lavoro. Torna in Italia Salvatore e sceglie Firenze, apre un laboratorio in pieno centro, a pochi passi dall'Arno, al piano terra del Palazzo Spini Feroni, sede del comune quando il capoluogo toscano era capitale d'Italia. Wanda Ferragamo mostra le immagini di quegli anni. Il pavimento del laboratorio è cosparso di forme delle scarpe delle clienti, da Greta Garbo a Sofia Loren, Anna Magnani alla duchessa di Windsor. Dopo qualche anno la famiglia Ferragamo diventa proprietaria di tutto il palazzo. Sceglie una delle stanze storiche, Wanda Ferragamo, per raccontare la sua vita. Purtroppo la mia giovinezza non è che sia stata molto allegra, perché avevo 15 anni e ho perduto un fratello che è caduto in un pozzo mentre giocava a pallone. Aveva 18 anni, di una bellezza. Poi ho perduto, a 16 ho perduto mia madre. Poi ho perduto un fratello che aveva 48 anni, ha lasciato 4 bambinetti, mio padre già 80enne si è rimboccato le maniche, medico, e si è rimboccato le maniche per tirar su, far studiare questi ragazzi. Quando io sono sposata e avevo solo 18 anni, ero veramente avida di sapere tutto ciò che lui aveva fatto tutta la sua vita. E imparavo tante cose perché era una realtà diversa dalla mia, quello che avevo vissuto in casa mia, perché 5 anni in collegio e dopo in casa, ma era una famiglia di, non di imprenditori, ma di medici, perché mio padre era medico, il nonno era medico. E quindi una realtà diversa, per cui tutto quello che Salvatore mi raccontava era tutto nuovo per me e da lui ho imparato molto, anche perché lui amava fare sempre progetti, lui li chiamava sogni e dice fin da bambino sognava le cose belle, le cose di andare avanti eccetera, e allora mi raccontava un po' quello che lui desiderava dei nostri figli, che cosa avrebbero dovuto fare i nostri figli, perché ne abbiamo avuti 6 e si preoccupava del futuro. Naturalmente il suo sogno principale era la sua azienda, quello che aveva creato, perché quando lui mi ha sposato quasi tutti i sogni erano realizzati. Aveva un'azienda avviata, aveva già una clientela di elite che oltre non si può, quindi le regine che venivano qui, aveva già questo Palazzo Feroni. Lui aveva realizzato parte dei suoi sogni ed era veramente molto famoso a quei tempi. Quindi pensavo al futuro dei figli e ne parlavamo continuamente. Quindi poi è arrivato la sua, purtroppo, la sua malattia e la sua scomparsa. Grazie a tutti i suoi racconti, a tutto quello che erano i suoi progetti, i suoi sogni, io mi sono sentita custode di tutto questo programma che lui mi aveva esposto per l'avvenire dei figli. Io non ho mai lavorato, non avevo neanche nessuna preparazione. Io, come ripeto, sono stata in collegio dove ho imparato pochissimo, perché io trovo che nei collegi si impara poco, si impara molto nella vita familiare, quando si ha la fortuna di avere i genitori a posto, in gamba, eccetera. Da loro si apprendono i principi veri. Non avevo proprio nessuna preparazione. Ho avuto solo un papà molto severo e quindi dovevamo rigar dritti e ci faceva capire tante cose della vita, tanti aspetti della vita. Era una preparazione anche quello alla vita e quindi servono quelle cose. L'esperienza del marito è stata sempre fondamentale per Wanda Ferragamo. Ha seguito le orme di Salvatore, imparando da lui anche come affrontare i momenti difficili nella vita e nel lavoro. Era poco più che ventenne, infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel tempo della guerra sarebbe stata durissima se non c'era Salvatore. Invece Salvatore c'era, pensi, non si poteva usare cuoio, non si poteva usare pelle. E allora Salvatore, sempre con la sua mente, lavorava, sempre pensava sempre al lavoro, sempre al lavoro, ha cercato dei materiali che erano bellissimi, basta vederli al museo, sono testimoni al museo. C'era lino grosso ricamato, raffia, cellofan. Sa come ha scoperto il cellofan? L'ha inventata Salvatore. Come? C'era una caramella con questo involucro di carta cellofanata un po' così. Allora questa carta era dura, non si rompeva. Cosa ha fatto? L'ha attorcigliata su se stessa. Poi per dare colore e maggiore forza ci ha messo dentro un filo colorato di cotone perlé, quello da ricamo. Ha messo questo filo dentro, lo ha attorcigliato e poi l'ha fatto dalle donnine che facevano la raffia, che intrecciavano la raffia, l'ha intrecciato. Ma era talmente bella perché aveva un leggero luccichio, per cui è stata questa scarpa che ha sostituito la scarpa d'oro, d'argento, con questa scarpa un po' lucida, ha sostituito quelle scarpe da sera con questa scarpa, che poi veniva in tutti i colori pastello, si dipendeva dal colore che metteva dentro. Si è reinventato tante cose, per cui noi con le frontiere tutte chiuse non si poteva dare un passo di là, al di là. Però avevamo negozi in Italia e quindi dovevamo alimentarli in qualche modo. Quindi questi hanno continuato a far funzionare i negozi. I signori dell'alta società compravano, se le mettevano, che poi era bellina anche di giorno, e anche la raffia e anche tante altre cose. La creatività sviluppata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale porta Salvatore Ferragamo ad un nuovo successo internazionale, dopo quello riscosso negli anni 20 negli ambienti di Hollywood e dell'alta società americana. Nel 1950 l'azienda conta 700 dipendenti e si producono a mano 350 scarpe al giorno. Per 10 anni le calzature firmate da Ferragamo conoscono soltanto successi, tanto che il fondatore inizia a pensare di allargare l'attività imprenditoriale, di dedicarsi alla produzione non soltanto di scarpe, ma anche di abbigliamento e accessori. Purtroppo il calzolaio dei sogni, così come si è definito lo stesso Ferragamo nella sua biografia, non è riuscito a portare a termine i suoi progetti. Muore nel 1960, a 62 anni. È stato un momento in cui dovevo decidere se l'azienda continuava oppure no. senza mai immaginare che avrei dovuto proprio far parte di questa nuova situazione. Proprio da questo momento inizia l'avventura di Wanda Ferragamo, finora acuta osservatrice dell'attività del marito. Proseguiamo il racconto fra un istante. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Wanda Ferragamo decide di non buttar via tutti quegli anni che il marito ha impiegato a costruire un'azienda molto affermata nel mondo. La morte di Salvatore segna dunque l'inizio della sua attività imprenditoriale. A 39 anni, quando prende le redini del gruppo, sulle sue spalle c'è un carico di esperienza maturata seguendo assiduamente il lavoro del marito. Bisogna decidere come e da dove partire. Le azioni sono a 38, l'offerta a 56. Avanti! Sì, cosa facciamo a riguardo? Ho appena controllato le mie tre. A te cosa risulta? Esatto, ce l'ho anch'io. Secondo me sta zoppicando parecchio. Bene, queste sono le nostre due, poi vediamo cosa succede. Splendido. Ciao. Ecco da dove riparte Wanda Ferragamo. Decide di rafforzare un settore dell'azienda in cui il marito Salvatore ha avuto alcuni problemi negli anni. Dunque, la cosa proprio che ho sempre sentito molto è stata la parte finanziaria, che è una parte molto importante. Perché vedi, in un'azienda se ci sono anche dei geni della creatività, però sono megalomani, possono saltare in qualsiasi momento e quindi va tutto a catafascio. Quindi la parte amministrativa è molto importante. Ed io le devo dire che avevo un timore particolare che potesse non andare bene la parte amministrativa, perché era capitato a Salvatore, che era un vero artista, tornato dall'America. Lui pensava a creare i suoi bei modelli e aveva affidato tutta la parte contabile a tre persone che invece lo rubavano, non sapevano fare il loro lavoro ed ebbe un tracollo. Allora, quando Salvatore mi ha raccontato questo, io tremavo di paura quando me lo ricordavo dopo la sua scomparsa, anche perché nella mia casa, mia famiglia, non c'era mai stato questo timore, perché era una famiglia normale, col suo tran tran, non è come in un'azienda che insomma ci sono sbalzi di mercato, sbalzi di tante cose. Però quando lui ha lasciato era tutto a posto, le finanze a posto, non avevamo debiti, non c'era da preoccuparsi. Però sapevo che dovevo fare attenzione, perché una cosa che era capitata a lui poteva capitare anche a me. E quindi mi sono dedicata proprio molto assiduamente al campo amministrativo. Ho continuato solo in quel campo perché poi mi ha raggiunta Fiamma, che si occupava delle scarpe, perché allora facevamo soltanto scarpe. E quindi Fiamma copriva questo ruolo molto bene, anche un nipote di mio marito al quale lui voleva molto bene, figlio di un fratello suo, che è stato bravissimo, quindi lui guardava la produzione, Fiamma la parte dei modelli, la parte del disegno, con altri collaboratori, qualche stilista, e quindi ero tranquilla, tutto andava bene, arrivavano i compratori e tutto funzionava bene. Quindi piano piano, secondo le tendenze dei figli, abbiamo aumentato, diciamo, la gamma dei prodotti. Non è proprio sola, quindi, Wanda Ferragamo nella sua impresa. C'è anche la primogenita, Fiamma, e il carattere familiare dell'azienda si rafforzerà negli anni anche con tutti gli altri figli. Sei in tutto. Tre maschi, Ferruccio, Leonardo e Massimo, e tre femmine, oltre a Fiamma, Giovanna e Fulvia. Ai figli, nonostante il lavoro inizialmente molto duro, ha sempre dedicato molta attenzione. A quel tempo, vede, c'erano anche in casa, Salvatore era per avere aiuti, sia in giardino, ne avevamo tre in casa, ne avevamo sei, quindi avevamo delle brave persone, specie per i ragazzi, delle nurse brave, carine, per bene. Magari erano ammalati e mi telefonavano, la febbre è scesa, la febbre è alzata, e quindi, però erano ben accuditi, e però io la sera poi ero sempre con loro, in vacanza con loro, ero sempre con loro. Ma torniamo all'attività imprenditoriale di Wanda Ferragamo. Il sogno del fondatore Salvatore di trasformare Ferragamo in una grande casa di moda non poteva essere lasciato soltanto ai ricordi. Wanda inizia quindi a buttarsi in un campo che la sua famiglia fino a questo momento non aveva mai esplorato. Anche questa volta non è da sola, il passaggio dalla sola produzione di scarpe all'abbigliamento avviene a piccoli passi. È venuto proprio gradualmente in un modo soft e splendido. Perché per esempio tutte le sete è scaturito dal fatto che Fulvia ha sposato una persona di Milano, quindi si è trasferita a Milano. Lei sentiva molto la mancanza della famiglia, perché eravamo sempre insieme, si facevano progetti insieme. E allora si sentiva, dicevo, come si fa che lei è lì e ha nostalgia di Firenze. E allora ho detto... Como e vicino, facciamo fare qualche cosa a Como, cioè contatti con questi bravi setaioli. Allora si è cominciata con i foulard, poi con ponci, poi con sciarpe, ombrelli, quindi tutti questi prodotti qui che scaturivano via via, cuscini. Grandi, piccoli. Lei così si è distratta, poi doveva spesso venire a Firenze per farci vedere i prototipi, per attingere dalla creatività di tutto l'insieme, altre cose, altre necessità. Voi farete furore con gli abiti creati da Astolfo Obedinski. Astolfo non andate in collera, ma non vi seguo a Venezia. Ma è follia, cosa dite? Mia cara, riflettete, abbiamo un'intesa. Ricordatela, io disegno i modelli degli abiti che voi indosserete ed ammirandoli la gente dirà: chi è l'artista che disegna questi abiti? E voi dite: chi? Chi è l'artista? Il nostro buon mercato a quei tempi era l'America e ci amavano molto, ci stimavano molto, per cui qualche cosa che era una necessità loro la dicevano a noi: voi lo potete fare, voi lo dovete fare. Ci avevano preso proprio, ci avevano adottati in un certo senso. Per cui, per esempio, la borsa, sa che la signora americana, non tanto in Europa, ma in America vogliono la borsa che vada con la scarpa. E allora dice: è una necessità, perché noi vendiamo molto bene le vostre scarpe, però ci chiedono continuamente una borsa che vada, voi lo dovete fare. E abbiamo cominciato quindi a fare le borse. Le loro esigenze le prendevamo a cuore e volevamo quindi mantenere il rapporto e servirle. La Doris Day, che faceva dei film un po' buffi e deliziosa, e lei appunto chiedeva dei vestitini tutti un po' geometrici. E poi c'era la Gardner, piaceva molto i poncio, perché vede, abbiamo sempre bisogno di input anche dal di fuori. No, è stato veramente, sono stati anni molto belli. Ricorre sempre l'America nella vita dei Ferragamo, ricorre da quando il marito aveva contatti con le attrici e l'alta società statunitense. Così Wanda ha dovuto adeguarsi a questo tipo di rapporti e non ha potuto tralasciare lo studio delle lingue, soprattutto dell'inglese, che ora, a 86 anni, parla perfettamente. L'ho imparato dopo sposata, perché Salvatore aveva sempre contatto con inglesi, americani, eccetera. Io stavo lì come un palo a tavola, non capivo niente. Capivo soltanto la parola knife e wife. Allora confondevo knife con wife. E io con tanto orecchio, perché wife ero io, per cui volevo capire. Insomma, io ho avuto sempre facilità per le lingue, sempre facilità. Il latino mi riusciva benissimo, mi divertivo anche. E poi il francese a scuola, però l'inglese capivo che era proprio indispensabile per noi. E allora c'era una istitutrice inglese della famiglia Ricasoli che si era ritirata e stava in un appartamentino vicino a noi, nella proprietà dei Corsini. Allora lei veniva a casa e aveva cominciato proprio con le prime nozioni, poi l'esercizio. Non avrei potuto fare niente, perché i nostri contatti sono proprio, stati sempre con l'America e Inghilterra all'inizio, poi tutto il mondo. Contatti in tutto il mondo, non solo per le scarpe ma anche per l'alta moda. Riesce nell'impresa Wanda, insieme alla famiglia, ai figli, corona il sogno del marito, scrive il nome Ferragamo sulle vetrine delle più grandi città del mondo. Ma l'azienda cambia inevitabilmente aspetto, cresce il numero dei dipendenti, crescono gli impegni. Il viaggio imprenditoriale di Wanda Ferragamo attraversa tante epoche e ora, a 86 anni, pur non tirandosi indietro, rimpiange i vecchi tempi. Quello che più mi dispiace è che nelle persone, nei nostri collaboratori, non sempre c'è quel senso di appartenenza all'azienda che c'era una volta. L'azienda è diventata grande, il mondo è anche sempre agguerrito e prende gli elementi dove sa che c'è stata a monte una preparazione, è buona, valida, quindi anche questo. E poi nella vita moderna proprio, questo un po' dispiace perché la collaborazione è molto importante quando si condivide anche con i dipendenti il problema di risolvere quel dato prodotto, quella data, è importantissimo. Ora ci sono le notizie sul traffico. Voci d'impresa torna subito dopo. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Mantiene il timone dell'azienda da quasi 50 anni Wanda Ferragamo. Non è sola, le dimensioni del gruppo non consentono ad una sola persona di occuparsi di tutto il lavoro, sono tante le cariche all'interno dell'azienda. Ma nonostante questo e nonostante gli 86 anni, la presidente della Salvatore Ferragamo S.p.A. non smette di essere operativa in ogni momento. Sì, come no, io non so come fare tutto quello che ho da fare. Mi occupo di tutto un insieme di cose, lo sa che non lo so nemmeno io dire, io scrivo anche la mattina presto, fogli sono quelli che consumo più blocchi di tutti. E scrivo tutto quello che mi viene in mente, tutto, dalle cose più disparate. Poi se vedo qualcosa che non va o nella vetrina o in negozio, mi basta entrare 2 secondi in un negozio, vedo subito quello che non va. Allora, Tess, poche regole chiare. Lei dovrà essere il mio collegamento con il resto del mondo. Le persone mi giudicheranno attraverso di lei. Sarà dura se ne avrà il motivo, sarà accomodante quando potrà esserlo, sarà precisa, puntuale e non farà promesse che non potrà mantenere. Io non sono mai al telefono, sono in riunione. Tess, dobbiamo essere una squadra e come tale dobbiamo avere una divisa, semplice, elegante, impeccabile. Vesti male, noteranno il vestito. Vesti impeccabilmente e noteranno la donna. Giorni fa sono stata a Londra. Allora, prima di tutto le commesse con la magliettina e non con la giacca. Secondo, nessuno si è mosso quando è entrata una cliente, andare incontro o salutare. Terzo, 2 vetrine abbuiate perché dovevano fare dall'interno l'esposizione e hanno chiuso 2 vetrine. Ho detto, niente affatto, fate una vetrina tutta per la spiaggia, per il mare. Che abbiamo tutti gli elementi, abbiamo il telo meraviglioso di grande, abbiamo la borsa capace di contenere il telo per andare su un invito su uno yacht, su da qualche parte in barca, poi abbiamo costumi, abbiamo tutto, quindi una vetrina a tema che fa venire la voglia di andare subito a fare una bella gita al mare. Quindi una è stata dedicata a quello e l'altra al tema sera, quindi vestito, la borsa da sera, scarpe da sera. Beh, sono abituata, sono 50 anni che io sono qui, sono 50 anni ormai, 50 anni. Io mi fa impressione anche a me di dirlo. 50 anni di esercizio dell'arte del comando, ma con la semplicità di chi prima è stata acuta osservatrice e poi coinvolta al vertice di un'impresa. Negli anni, nonostante la forte crescita del gruppo e dei dipendenti, Wanda Ferragamo non ha perso il rapporto con chi lavora per quella che è stata la storia della sua famiglia. Loro non è che mi vedono continuamente, mi vedono qui, siamo qui una famiglia qui che sta a Palazzo Feroni, poi gli altri sono allo Smannoro, in fabbrica, e mi vedono non tanto spesso. Però, vede, quello che c'è di bello, conoscono un po' la nostra vita, tutta una famiglia dedicata, sacrificata, appassionata, diciamo, ce l'abbiamo proprio sotto pelle. E quindi molta gente lo apprezza questo, lo apprezza. Gli anni di lavoro, l'esperienza e i successi maturati dal 1960 ad oggi sono stati premiati. La ricompensa dell'impegno nell'attività non si è materializzata soltanto negli incassi del gruppo, ma anche nella fama nazionale ed internazionale di Wanda Ferragamo, che grazie al suo lavoro ha ottenuto molti riconoscimenti. Impossibile elencarli tutti, ma a lei qualcuno sta molto a cuore. Questo è molto gratificante e sono molto onorata di questo. Quello che mi ha onorato molto, perché so che è proprio il top, è Cavaliere di Gran Croce, dal presidente Ciampi. Poi l'altro mi ha fatto molto piacere e mio marito l'avrebbe tanto desiderato per lui, e era proposto quando poi si è ammalato, Cavaliere del Lavoro. Tanti, tanti, in America tantissimi, però devo dire anche che ci sono tante donne che ammiro, che hanno fatto moltissimo, che non hanno avuto grandi onorificenze perché non erano forse esposte come sono state esposte io, perché il campo della moda comporta questo, ma che le avrebbero meritato molto più di me. Guarda con ammirazione le donne al lavoro, lei che è stata una delle prime imprenditrici in Italia, ma critica spesso il gentil sesso in cerca di affermazione e carriera. Delle volte sono troppo di carriera, carriera, carriera. E io lo dico sempre, voi dovete, poi si lamentano magari che non hanno il corteggiatore, e quelli le spaventano un po'. Ho un uomo da un po' di tempo, quello giusto, credo. E credo che in questo weekend decideremo. Ha detto che c'era una cosa molto importante della quale voleva parlarmi. Penso che mi proporrà di sposarlo. Davvero? Almeno credo. Ora viviamo tutti e due a New York. Gli ho fatto capire che sarei disponibile alla proposta. E mi sono tenuta libera per giugno. E sposerebbe oltretutto me. Ci sono delle ragazze un po' fatue, che non affrontano, non si approfondiscono nel lavoro, sono molto distratte. E mentre poi ci sono dei ragazzi che oggi sono proprio bravi, bravi, bravi. Quindi dipende anche dal tipo di lavoro. Ma alle ragazze chiederei sì la femminilità, ma anche molta serietà nel lavoro. Il lavoro è una cosa seria, è una cosa che ci gratifica. La donna nel lavoro può fare moltissimo, perché ha intuito, si applica, però non deve perdere la sua femminilità. E io le racconto questo. E mi è rimasto sempre impressa. Una volta, siccome abbiamo spostato a suo tempo la vecchia fabbrica, che era veramente bruttina, ho fatto la nuova. Subito dopo 2 anni che era morto mio marito, ho fatto un'altra nuova, in un posto anche più adatto per l'ambiente, eccetera. Allora era rimasto questo terreno inutilizzato, fabbricativo, e ho fabbricato 2 palazzi lì, da sola. Però c'era un architetto bravissimo. Allora mi ha fatto il progetto e poi è venuto da me il costruttore, col quale volevo un po' discutere i prezzi. E allora io tiravo un po', tiravo di qua, tiravo di là. A un certo punto lui ha detto, va bene signora, accetto, facciamo come desidera lei, però ci tengo a dire che se di fronte a me c'era un uomo io avrei detto di no, ma siccome lei è una donna me l'ha detto così per benino, così con tanto garbo, io l'accontento. È sui giovani che vuole puntare Wanda Ferragamo, ha molta fiducia in loro, a tal punto da voler investire molto sulle nuove leve. Io voglio fare delle borse di studio, mi voglio preparare, fare una fondazione a nome di mio marito, perché in fondo non è che dobbiamo pensare solo ai nostri figli, dobbiamo pensare anche a dei giovani ragazzi, giovani, che sono intelligenti ma non hanno il mezzo per andare a fare il master alla New York University, cosa che io farò, ho già preso contatti. Ora all'inizio non saranno molti, però costano questi corsi, perché per un anno costa $50,000, il master è 2 anni, quindi sono $100,000, però ben vengano, perché noi abbiamo bisogno di cervelli, abbiamo bisogno di persone, ragazzi che ci danno una tranquillità per l'avvenire. Indirettamente sono per tutti noi. Quando un ragazzo è formato, fa bene a tutto quello che è intorno a lui. Ci ho fiducia perché, come ripeto, anche i miei interlocutori l'altro giorno dicevano: guardate, ci sono dei ragazzi formidabili, sono molto più svegli di noi. Io, guarda, le volte ho questo, quel DVD, che non sapevo mica come si accendeva, mi imbroglio sempre, ho la testa oberata di tante cose. C'ho la bambina di mio figlio Ferruccio, la Vicky, che veniva toc toc toc toc, mi aveva fatto lei, aveva 8-9 anni. In 50 anni di attività i ritagli di tempo libero non sono stati molti, ma quelli che c'erano li ha dedicati alla sua passione, che risiede nelle campagne del Val d'Arno, dove ha trasformato antiche case di contadini in lussuosi agriturismi. Si è dedicata con molta cura al disegno di quelle abitazioni, ristrutturandole, mantenendo però le radici di antiche tradizioni. C'è un ambito però che non l'ha mai attirata, la politica, anche se ha ricevuto diverse proposte per farne parte. Zero, e rimarrà sempre zero. Non c'è bisogno. Se possiamo fare qualche cosa per la città, per questo qui, mai tirarci indietro, perché vede, noi, Salvatore ha scelto Firenze, quindi noi dobbiamo anche molto a Firenze, e Firenze forse anche a noi. Quindi è un rapporto proprio di amore. Tant'è vero, ho scritto una lettera a Firenze per quando morirò. Perché io non è che devo vivere 200 anni, vero? Quindi ho scritto una lettera a Firenze, siccome noi abitiamo un po' in collina, e allora abbiamo tutta Firenze sotto, tutte le colline. Quindi da lì c'è questa terrazza davanti alla mia casa, dove usciamo sempre, siamo lì. E c'è questa Firenze, che in fondo io me l'ammiro e l'amo per i tanti ricordi. E allora ho pensato, dico, voglio scrivere una lettera, ce l'ho, devo correggere, forse devo aggiornarla. Sì, qualche volta volevano farmi sindaco, e anche ai miei figli, ma francamente abbiamo tanto da fare. Noi sappiamo che facciamo bene all'Italia, al paese, facendo quello che facciamo e cercando di farlo bene. La politica non ci interessa mai, neanche a mio marito, mai, mai, mai. Però abbiamo rapporti buoni con tutti, perché noi vediamo l'individuo, non la politica, vediamo l'individuo. Io specialmente, io nella persona voglio trovare quello che c'è dietro, quello che c'è nel cuore, nella mente e nella volontà di quello che vuol fare. La puntata di Voci d'Impresa di oggi termina qui. Grazie per averci seguito. Da Stefano Totoro, l'augurio di una buona giornata.